3. Nessuno denunziò alle autorità l'abbandono del piccolo Anania ed Olì poté scomparire indisturbata. Non si seppe mai precisamente dove ella fosse andata, ma qualcuno disse di averla veduta sul piroscafo che faceva il servizio fra la Sardegna e Civitavecchia. E qualche tempo dopo un negoziante fonnese che era stato in continente per affari assicurò di aver incontrato Olì a Roma vestita da signora in compagnia di allegre donnine e di aver passato qualche ora con lei. Tutte queste cose si dicevano nel molino, presente il fanciulletto che ascoltava avidamente, simile ad una bestiola selvatica, in apparenza addomesticata, egli meditava continuamente la fuga. Come a Fonni, mentre viveva con la madre, desiderava di fuggire per andare alla ricerca del padre. Ora che il suo sogno si era avverato, non pensava che ad un viaggio per ritrovarlo lì. Tanto meglio se ella era lontana, al di là del mare. Più ella era lontana, più egli si sentiva capace di ritrovarla. Eppure egli non l'amava, non l'amava perché da lei aveva sempre ricevuto più busse che carezze. E l'affronto dell'abbandono di cui sentiva istintivamente tutta la vergogna. Ma non amava neppure suo padre, quell'uomo oleoso che nei primi istanti dell'abbandono l'aveva accolto con odio e quindi gli aveva destato un senso di terrore, di ripugnanza. Quell'uomo, infine, che lo baciava in segreto e davanti alla gente lo maltrattava e lo umiliava continuamente. Zia Tatana, però, lo proteggeva e lo amava, ed egli a poco le si affezionò, e lo lavava, lo pettinava, lo vestiva, gli insegnava le preghiere e i precetti del re Salomone, lo conduceva in chiesa, lo faceva dormire con lei, gli dava cose buone da mangiare. In poco tempo egli si trasformò, ingrassò e diventò addirittura un signore, abbandonando il rozzo costume fonnese per un abituccio di fustagno scuro. Inoltre cominciò a parlare nuorese e ad assumere i modi spigliati di bustianeddu. Ma il suo cuoricino non cambiava, non poteva cambiare. Strani sogni di fughe, di avventure, di avvenimenti straordinari si confondevano nella piccola anima con l'istintiva nostalgia per il luogo natio, per le persone e le cose perdute, col desiderio della libertà selvaggia fino allora goduta ed infine col sentimento arcano di pietà e di vergogna, col pensiero costante, col segreto anelito per la madre lontana. Egli anelava qualche cosa d'ignoto, voleva sua madre perché tutti avevano la madre e perché il non averla gli causava più che dolore, umiliazione. Capiva che ella non poteva stare col mugnaio perché costui aveva un'altra moglie, ma fra i due egli avrebbe preferito vivere con lei. Forse istintivamente intuiva già che ella era la più debole e anche perciò si sentiva dalla sua parte. A misura che il tempo passava, questi sentimenti si attenuavano ma non scomparivano dal piccolo cuore, come nella piccola memoria si trasformava ma non spariva la figura fisica e morale della madre lontana. Un giorno poi egli venne a sapere da Bustianeddu che lo perseguitava con la sua amicizia subita più che accettata una cosa straordinaria. «Mia madre non è morta», gli confidò il ragazzetto quasi vantandosene. Si trova anch'essa in continente, come la tua. Scappò una volta che mio padre stette in carcere. Ma quando sarò grande andrò a trovarla. Eh sì, te lo giuro. E poi io ho anche uno zio che studia in continente ed egli scrisse d'aver veduto mia madre passare in una via e voleva bastonarla, ma la gente lo tenne fermo. Ecco, questo berretto rosso era di mio zio. Questa breve storia confortò Anania. E lo legò di viva amicizia con Bustianeddu. Essi trascorsero molti anni assieme nel frantoio, nella casa di zia Tatana, per le straducole del vicinato. Bustianeddu aveva quasi la stessa età di Zuanne, l'amico perduto, e in fondo era generoso e ardente. Andava o diceva ad andare a scuola, ma spesso il maestro scriveva un bigliettino al padre per chiedere notizie dell'invisibile scolaro. Allora il genitore, che era un piccolo negoziante di lana e di pelli, legava il bimbo con una corda di pelo e lo chiudeva in una stanza, imponendogli di studiare. Come i delinquenti dal carcere, Bustianeddu usciva da questa specie di prigionia più astuto e indurito di prima. Solo durante le lunghe e frequenti assenze del padre, egli, solo in casa, diventava serio. Prendeva Pareva sentisse la responsabilità della sua posizione. Guardava la casa, scopava, preparava da mangiare, lavava la biancheria. Spesso Anania lo aiutava di gran cuore. In cambio, Bustianello gli dava qualche consiglio, gli insegnava molte cose buone e moltissime cattive. Passavano buona parte delle giornate e delle lunghe sere fredde nel molino, ove Anania Grande, come lo chiamavano per distinguerlo dal figlio, lavorava per conto del ricco signor Daniele Carboni, al quale il frantoio apparteneva. Il mugnaio, che secondo le stagioni si trasformava in contadino, in ortolano, in vignaiuolo, dava al signor Carboni il rispettoso titolo di padrone perché lo serviva da lunghi anni, ma in realtà il suo lavoro era molto indipendente, ben remunerato e non privo di incerti. Il frantoio dava da una parte su un cortile e dall'altra su un orto che scendeva fino allo stradale sopra la valle. Un bell'orto alquanto selvatico, con rocce, siepi di biancospino e di fichi d'India, peschi e mandorli e una quercia dal tronco corroso, nido di grosse termiti, di cavallette, di bruchi e di uccelli. Anche quest'orto apparteneva al signor Carboni ed era il sogno di tutti i monelli del vicinato. Ma zio Pera Sagattu, il vecchio ortolano, sempre armato di un randello, non lasciava mai penetrare nessuno. Da quest'orto si vedevano le belle ed agili fanciulle nuoresi scendere alla fontana con l'anfora sul capo come le donne bibliche. E zio Pera le sbirciava con occhi da satiro mentre seminava le fave e i fagioli, mettendo tre semi per buco e gridando per spaventare i passeri. Dal finestrino del molino, Anania e Bustianeddu guardavano anch'essi con intenso desiderio l'orto soleggiato, aspettando che l'ortolano si assentasse. Ma zio Pera, che era un ometto secco dal viso rosso terreo, sbarbato e sarcastico, amava troppo le sue fave e i suoi cavoli per abbandonarli durante la giornata. Solo verso sera saliva al molino per riscaldarsi e chiacchierare. Era un'annata abbondante di olive. Anche i proprietari dei paesi vicini si affannavano per ottenere l'opera del frantoio, che funzionava giorno e notte. Per ogni macinata di circa 2 ettolitri di olive si lasciavano 2 litri di olio. Accanto alla porta c'era una latta per l'olio da alimentare la lampada di questa e quella Madonna, e le persone devote non mancavano mai di versarvi un po' del prodotto delle olive macinate durante la giornata. Sacchi di olive nere lucenti, sansa fumante, barili ed altri recipienti sporchi ingombravano sempre l'ambiente nero, caldo e sucido del molino. E in questo ambiente, intorno alla ruota trainata dal lungo cavallo baio, davanti alla caldaia bollente, accanto al torchio sempre in moto, sempre stillante olio, fra l'odore non sgradevole ma troppo forte della sansa e dei rifiuti dell'olio, muovevasi di continuo una folla di tipi caratteristici. La sera poi si riunivano intorno al fuoco della caldaia le persone più freddolose del vicinato. Per lo più la compagnia veniva composta, oltre che dal mugnaio e dai clienti che aiutavano a spingere la sbarra del torchio, da 5 o 6 individui sempre alticci. Uno di questi, Efes Cau, già ricco possidente, ridotto in estrema miseria dal vizio del vino, dormiva quasi ogni notte nel molino, infestando di insetti l'angolo dove si coricava. Una sera, appunto, sorse questione fra il mugnaio ed un ricco contadino che aveva trovato un brutto insetto in un sacco di olive. «Dovresti vergognarti, per Dio!» gridava il contadino. «Perché lasci entrare qui tutti i vagabondi di Nuoro?» «Dopotutto, egli era ricco, più ricco di te!» gridò il mugnaio, difendendo il cao. «Questo non impedisce che ora egli viva di elemosine e sia pieno di insetti!» rispose l'altro con disprezzo. Allora zio Pera, l'ortolano, che stava seduto accanto al fuoco col suo randello fra le ginocchia, recitò una canzonetta: Onzi pessone bia, nde iuchet demonia, e tue chi luses nende, nde iuches unu andende, i su collette. Ogni persona viva porta pidocchi, e tu, che lo stai dicendo, ce ne hai uno che cammina sul colletto. Il contadino si toccò istintivamente il colletto e tutti risero. Anche il contadino rise. Si calmò ed anzi fece portare da casa sua un bottiglione di vino. Anania e Bustianeddu, seduti in un angolo sulle sanse calde, si divertivano nell'udire i discorsi dei grandi e quando arrivò Efes, come sempre ubriaco, barcollante, vestito d'un vecchio abito da caccia del signor Carboni, Bustianeddu gli andò incontro e gli cantò la canzonetta di Zio Pera, Onzi Pessone Bia. Efes lo guardò coi suoi occhi vitrei, rotondi e sporgenti, e mentre sulle sue guance gialle e cascanti passava come un brivido di disgusto, la sua mano palpava il lurido collo della giacca abbottonata. La gente ricominciò a ridere e l'infelice si guardò attorno e barcollò, poi si mise a piangere accorgendosi che lo deridevano. Efes, gridò Zio Pera mostrandogli un bicchiere colmo che al riflesso del fuoco pareva di rubino. L'ubriaco si avanzò, sorridendo fra le lacrime con un sorriso ebete. «No!» disse Francisco Carchide, il giovane calzolaio, nonché ricamatore di cinture, bel giovane galante dal viso roseo. «Se tu non balli, non bevi!» E preso il bicchiere dalle mani del vecchio, lo sollevò in alto, mentre Efes guardava e tendeva le braccia animato dal brutale desiderio del vino. «Dammi! Dammi!» «No! Se non balli, no!» Egli fece un giro intorno a sé, reggendo in equilibrio. Bisogna anche cantare, Efes. Ed egli aprì la bocca puzzolente ed emise una nota rauca. Quando Amelia si pura e si candida. Egli tentava sempre questo motivo, ma arrivato all'ultima parola, contorceva la bocca come spasimando per la vana ricerca dell'altro verso che non ricordava. Anania e Bustianeddu ridevano sgangheratamente, accoccolati sulle sanse, simili a due pulcini. «Senti», propose Bustianeddu, «mettiamogli delle spille nel posto dove si corica». «Perché vuoi mettergli delle spille?» «Perché si punga, ecco, allora ballerà davvero, io ho le spille». «Mettiamole», rispose l'altro, sebbene a malincuore. L'ubriaco ballava ancora, barcollante, cascante, tendendo le mani verso il bicchiere, e la gente rideva. Ma l'allegria giunse al colmo quando entrò nel molino Nanna, l'ubriacona. Quella sera però ella era sana, aveva le vesti pulite e la faccia meno ripugnante del solito. I suoi occhietti brillavano di una certa intelligenza. Era stata, durante il giorno, a cogliere erbe mangerecce selvatiche e veniva a domandare un po' d'olio per condirle. Vedendo Efes in quello stato, fatto ludibrio della gente, ella ebbe un lampo negli occhi. Si avanzò, prese l'infelice per un braccio e, nonostante le comiche proteste del ricco contadino, lo costrinse a sedersi su un sacco di olive. «Non ti vergogni, Efes Cau? Non hai occhi? Non vedi che tutti questi mendicanti, tutte queste immondezze ridono di te? È perché hanno raddoppiato le risa vedendomi. Eppure oggi io ho lavorato, come vero Dio, ho lavorato. Ah, Efes, ricordati com'era ricca la tua casa. Io venivo per portare l'acqua dalla fontana e mi ricordo che tua madre aveva i bottoni d'oro della camicia, grossi come il mio pugno. La tua casa sembrava una chiesa, tanto era ricca e lucente. Se tu ti fossi guardato dal vizio, ora tutti avrebbero cercato di raccoglierti come si raccoglie un confetto. Invece tu, ora sei schernito dai più miserabili pezzenti e tutti ridono di te come dell'orso che balla per le strade. Ecco che ridono ancora, eppure essi sono più ubriachi di noi, come è vero Dio. Su, via, mugnaio, dammi un po' d'olio. Tua moglie è una santa, ma tu sei un diavolo. Quando lo trovi il tesoro? Veramente egli lavora un po' più di te, perché te la prendi con lui? Chiese Zio Pera accennando al mugnaio. Ah, vecchio peccatore, rispose la donna, voi state zitto quando ci sono io. Po', po', disse il vecchio con disprezzo, tu fai la predica oggi perché non hai vino in corpo. Io so tenere in corpo il vino ed altre cose ancora. Dammi l'olio, Anania Tonsu, oggi nella valle ho visto una cosa. Sembrava una moneta d'oro. Tu non l'hai raccolta? Gridò il mugnaio rizzandosi sulla sua pala nera. Eccola, rispose Nanna frugandosi in tasca e avvicinandosi al mugnaio, che si pulì le mani, passandosele sulle ginocchia e poi esaminò la moneta di rame fatta nera verde dal tempo. Bustianeddu ed Anania corsero anch'essi a vedere. Intanto Efes, seduto sul sacco, piangeva ricordando la madre e la ricca casa paterna, e invano il Carchide cercava di consolarlo offrendogli il bicchiere. No, Neppure il vino poteva lenire il dolore di quei ricordi. Tuttavia, egli prese il bicchiere e bevette piangendo. Il ricco contadino, il padre di Bustianeddu, giovine olivastro con gli occhi turchini e la barba rossa, congiuravano per far ubriacare Nanna, onde ella dicesse ciò che sapeva sul conto di zio Pera. E intanto l'ortolano gridava contro i due uomini che spingevano la spranga, perché secondo lui essi non spiegavano abbastanza le loro forze. Che una palla vi trapassi il fegato! Conservatevi bene, ragazzi! Diceva con ironia. Come sono poltroni i giovani d'oggi! Provate un po' a mettervi qui voi al posto delle olive per sentire la nostra forza. Che una palla vi trapassi la milza! Che una palla vi trapassi il calcagno! Continuava ad imprecare zio Pera. Bene! Esclamò Mastropane. Il vecchio falegname gobbo, che aveva un solo baffo grigio sulla gran bocca sdentata. Poi egli andò e mise il chiodo sotto. Seduto contro il muro, sotto il finestruolo, egli si batteva di tanto in tanto i pugni sulle ginocchia, ma nessuno badava a lui, che usava parlare fra sé ad alta voce. «Nanna», disse il contadino, «ora si porta la cena da casa mia, resta!» «Tu vuoi divertirti?» disse la donna guardandolo maliziosamente. Non ti basta, Efes? Tuttavia ella restò. Andò presso il poveretto che piangeva sempre e ricominciò a rimproverarlo, consigliandolo di non bere più, di non essere più il disonore dei suoi parenti. Ma intanto avveniva una cosa strana. Il Carchide le mostrava il bicchiere colmo, facendo dei cenni con la bocca, invitandola silenziosamente a bere. Ed ella guardava il vino, affascinata. E dammelo! Proruppe alfine. Bustianeddu ed Anania, ritti dietro i due disgraziati ubriaconi, ridevano a più non posso. Per Dio, come sei brutto! Disse Mastropane, sempre parlando fra sé. Nanna prese il bicchiere, bevette e cominciò a raccontare brutte storielle sul conto di zio Pera. Sì, il vecchio ortolano aspettava la mattina per tempo che qualche ragazzetta passasse nello stradale, la chiamava promettendo le fave e insalate, quando l'aveva attirata entro l'orto cercava. Ah! Oh, tre schifosa! Gridò zio Pera minacciandola col randello. Aspetta! Aspetta un po'. Ebbene? Cosa dico io? Voi cercavate di insegnarle l'Ave Maria. E tutti ridevano. E anche Anania rideva, sebbene non capisse perché zio Pera volesse insegnare per forza l'Ave Maria alle ragazzette che andavano alla fontana. Intanto Bustianeddu aveva seminato le spille sul posto dove Efes soleva coricarsi. Anania se ne accorse e non si oppose, ma appena fu a casa, coricato nel gran letto di zia Tatana, provò un impeto di rimorso. Non poteva dormire, si voltava e rivoltava, sembrandogli d'essere anche lui tormentato da migliaia di spille. «Che hai, bambino?» chiese zia Tatana con l'usata dolcezza. «Ti fa male il ventre?» «No, no!» «Ma che hai, dunque?» Egli non rispose subito, ma dopo qualche momento rivelò il segreto. «Oh, abbiamo sparso tante spille sul posto dove dorme Efescau!» «Ah, cattivi ragazzi, perché avete fatto ciò?» «Perché egli si ubriaca!» Ah, santa Caterina mia, sospirò la donna, come sono cattivi i ragazzi d'oggi. E se qualcuno mettesse delle spille dove dormite voi, vi piacerebbe? No, vero? Eppure voi siete più cattivi di Efes. Tutti nel mondo siamo cattivi, agnellino mio, ma bisogna che ci compatiamo a vicenda, altrimenti guai, ci divoreremmo come i pesci del mare. Re Salomone disse che spetta soltanto a Dio giudicare, hai capito? E Anania pensò a sua madre. A sua madre che era stata così cattiva da abbandonarlo. 4. Un giorno, verso la metà di marzo, Bustianeddu invitò Anania a pranzo. Il negoziante di pelli era dovuto partire improvvisamente per affari e il ragazzetto trovavasi solo a casa, solo e libero, dopo 2 giorni di prigionia per una delle solite assenze dalla scuola. Inoltre serbava sulla guancia destra il segno di un poderoso schiaffo somministratogli dal genitore. «Vogliono che io studi», disse ad Anania, aprendo le mani col solito fare da uomo serio. «E se io non ne ho voglia? Io desidero fare il pasticcere, perché non me lo lasciano fare?» «Eh sì, perché?» chiese Anania. Perché è vergogna, esclamò l'altro, allungando la parola con accento ironico. È vergogna lavorare, apprendere un mestiere quando si può studiare. Così dicono i miei parenti. Ma ora voglio far loro una burletta. Aspetta, aspetta. Che cosa vuoi fare? Te lo dirò poi. Ora mangiamo. Egli aveva preparato i maccheroni, così egli chiamava certi gnocchi grossi e duri come mandorle, conditi con salsa di pomidori secchi. I due amici mangiarono in compagnia di un gattino grigio che con lo zampino bruciacchiato prendeva familiarmente i gnocchi dal piatto comune e se li portava furbescamente in un angolo della cucina. Com'è curioso, diceva Nania seguendolo con gli occhi. A noi ce l'hanno rubato il gatto. Ah, anche a noi, ce ne hanno rubati tanti. Scompaiono e non si sa dove vadano a finire. Scompaiono tutti i gatti del vicinato. Chi li ruba cosa ne fa? Ebbene, li fa arrostire. La carne è buona, sai? Sembra carne di lepre. In continente la vendono per lepre. Così dice mio padre. Tuo padre è stato in continente? Sì, ed anch'io ci andrò, e presto. Tu, disse Anania, ridendo con un po' di invidia. Bustianeddu allora crede giunto il momento di svelare all'amico i suoi pericolosi progetti. Io non posso più vivere qui. Cominciò a lamentarsi. No, io voglio andare via. Cercherò mia madre e farò il pasticcere. Se vuoi venire, vieni anche tu. Anania arrossì di emozione e sentì il suo cuore battere forte forte. Non abbiamo i denari, osservò. Ecco, noi prendiamo le 100 lire che sono nel cassetto del comò. Se vuoi, le prendiamo subito, poi le nascondiamo perché se partiamo subito, mio padre si accorge che le ho prese io. Aspettiamo finché passa il freddo e poi partiamo. Vieni. Condusse Anania in una camera sucida e disordinata, ingombra di pelli d'agnello puzzolenti. Cercò la chiave del cassettone in un nascondiglio e si fece aiutare ad aprire il cassetto. Oltre il biglietto rosso delle 100 lire, c'erano altre carte monete e denari in argento, ma i due ladruncoli domestici presero soltanto il biglietto rosso, richiusero e rimisero la chiave. Ora lo tieni tu, disse Bustianeddu, ficcando il biglietto in seno ad Anania. Stanotte lo nasconderemo nell'orto del molino, nel buco della quercia, sai? E poi aspetteremo. Ancor prima che avesse potuto opporsi, Anania si trovò col biglietto nel seno, sotto l'amuleto di broccato, e passò una giornata febbrile, piena di rimorsi, di paura, di speranze e di progetti meravigliosi. Fuggire. Fuggire come e quando non sapeva, ma oramai sentiva che il sogno stava per avverarsi e ne provava gioia e terrore. Fuggire, passare il mare, penetrare nel regno fantastico di quel continente misterioso dove si nascondeva sua madre. Che ansie, che sogni, che gioia! Le 100 lire gli sembravano un tesoro inesauribile. Ma intanto sentiva d'aver commesso un grave delitto rubandole e non vedeva l'ora che arrivasse la notte per liberarsene. Non era la prima volta che i due amici penetravano nell'orto coltivato da zio Pera, scavalcando la finestruola che dalla stalla attigua al molino dava nell'orto. Di notte, però, non c'erano mai stati e quindi spiarono a lungo prima d'azzardarsi. Cadeva una sera chiara e fredda. La luna piena sorgeva fra le rocce nere dell'orthobene, illuminando l'orto con un chiarore d'oro. Giungeva ai due bimbi affacciati alla finestruola un disperato miagolio di gatto che pareva un lamento umano. Che cos'è? Pare il diavolo, disse Anania. Io non scendo, no, io ho paura. E rimani qui allora. È un gatto, non senti? Rispose l'altro con disprezzo. Scendo io. Nascondo il denaro entro la quercia, dove zio Pera non guarda mai, poi torno. Tu resta qui a guardare, se c'è pericolo, fischia. In che consistesse poi questo pericolo, i due amici non sapevano, ma entrambi provavano un acuto piacere a rendere fantastica l'avventura, alla quale il chiarore della luna e quel lamento straziante di gatto davano un sapore ancora più piccante. Bustianeddu saltò nell'orto ed Anania rimase alla finestra, un po' avvilito dalla paura che lo rendeva tremante, ma tutto occhi e tutto orecchi. Ed ecco, appena il compagno fu scomparso in direzione della quercia, due ombre passarono sotto la finestruola. Anania sussultò e mise un fischio sottile sottile e si nascose sotto il davanzale. Ah, che impeto di terrore e di piacere strano provò in quel momento. Come si sarebbe salvato Bustianeddu? Che avveniva laggiù? Ecco, i lamenti del gatto raddoppiarono, si fusero tutti in un gemito rabbioso e straziante, poi cessarono. Silenzio. Che mistero, che orrore. Onania sentiva il cuore spezzargliesi in seno. Che accadeva all'amico? L'avevano preso, l'avevano arrestato. Ora lo porterebbero in prigione e anche lui subirebbe la sua parte di guai. Tuttavia non pensò un solo istante a mettersi in salvo e attese coraggiosamente sotto la finestra. Ed ecco un passo, un respiro ansante, una voce sommessa e tremula. Anania, dove diavolo sei? Anania balzò su, porse la mano al compagno salvo. Diavolo, disse Bustianeddu ansante, l'ho scampata bella. Hai sentito il fischio? Eppure ho fischiato forte. Niente, ho sentito invece il passo di due uomini e mi sono nascosto sotto i cavoli. Ecco, sai chi erano i due uomini? Zio Pera e Mastro Pane, sai che hanno fatto? Ebbene, c'è un laccio per i gatti. Il gatto che miagolava era preso al laccio e Zio Pera lo ha ammazzato col randello. Mastro Pane prese la povera bestia sotto il mantello e disse tutto contento: Perdio, com'è grasso! Meno male, disse Zio Pera, quello di avantieri sembrava uno stecco. Poi andarono via. Oh! Esclamò Anania a bocca aperta. Ora lo fanno arrostire, capisci? E cenano. Sono loro che rubano i gatti, così prendendoli al laccio. Meno male che non mi hanno veduto. E i denari? Nascosti. Andiamo, Mammaluco, non sei buono a niente. Anania non si offese, chiuse la finestra e rientrò nel molino dove si svolgeva la solita scena. C'era Efes che si grattava le spalle contro il muro cantando «Quando Amelia si pura e si candida!» e il Carchide che raccontava d'essere stato in un paese vicino per certi suoi affari. «Il sindaco era amico di mio padre quando noi eravamo ricchi», diceva il bel giovine, la cui famiglia era stata sempre miserabile. Appena sa che io arrivo nel paese mi manda a chiamare e mi ospita in casa sua. Accidenti, che gente ricca! 30 servi e 7 serve! Per arrivare alla casa bisogna attraversare tre cortili, uno dentro l'altro, con muri altissimi, i portoni di ferro, le finestre della casa tutte munite di inferriate, eh? E perché? Chiese il mugnaio. Per i ladri, caro mio, perché il sindaco è ricco come il re. Boom! Boom! Gridò un uomo che spingeva la spranga. Cosa ne sai tu? Riprese il Carchide, guardando l'uomo con disprezzo. Il sindaco e i suoi fratelli, quando morì il loro padre, si divisero le monete d'oro con una misura capace di un ettolitro. La moglie del sindaco poi ha 8 tancasi in fila, irrigate da fiumi con più di 100 fontane. Ebbene, dicono che il padre del sindaco trovò un ascusorio, dove il re di Spagna, quando fece la guerra con Eleonora d'Arborea, nascose più di 100.000 scudi in oro. Ah! Esclamò il mugnaio con un fremito di emozione appoggiandosi sulla pala nera. Quelli sì, quelli sono signori ricchi, riprese il Carchide. E dunque, i rognosi nuoresi? Il mio padrone è ricco, protestò il mugnaio. Possiede più lui nell'angolo della scopa che tutti i tuoi sindaci pulciosi. Eva! Gridò il giovine, facendo le fiche. Tu non sai quel che dici. Tu non sai quel che dici tu. Il tuo padrone è pieno di debiti, ne vedremo la fine, ne vedremo. O che tu possa diventare cieco prima. Che tu possa schiantare prima. Per poco il mugnaio e il giovane calzolaio non vennero alle mani, ma la loro lite fu interrotta da un assalto di delirium tremens che colpì il povero Efes Cau. Egli cadde sulle sanse, avvoltolandosi, contorcendosi, saltando come un verme, con gli occhi spaventosamente aperti e i lineamenti contratti. Anania si gettò in un angolo, gridando e piangendo per lo spavento, mentre Bustianeddu corse, assieme col mugnaio ed altri, per aiutare il disgraziato. A poco Efes tornò in sé, si sedette sulle sanse sparse, guardò attorno con quei suoi grandi occhi sporgenti, pieni di terrore, ancora tutto contorto e tremante. Gli diedero da bere, lo confortarono. Chi mi ha assalito? Perché mi avete bastonato? Ah, non mi ha abbastanza castigato Dio perché abbiate a bastonarmi anche voi? E poi si mise a piangere. Lo fecero coricare ed egli si assopì, delirando, chiamando sua madre e una sorellina morta. Anania Anania lo guardava con terrore e pietà, avrebbe voluto fare qualcosa per aiutarlo, intanto provava un istintivo disgusto per quell'uomo una volta ricco, ora ridotto ad un involto di cenci puzzolenti, buttato sulla sansa come un mucchio di immondezze.